Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. La copertura per il 2014 è una copertura che riguarda due terzi del periodo, perché parte, come ricorderete, dal 1 maggio al 31 dicembre. 8 su 12 sono due terzi. E quindi la copertura è di 6,7 miliardi di euro. Questo tipo di copertura è così formato: 4,5 miliardi dalla spending, 2,2 miliardi verranno dall'aumento del gettito IVA e dal aumento della tassazione sulla rivalutazione dell'operazione Banca d'Italia, quindi saranno le banche a concorrere a questo esercizio, a questo sforzo. È evidente che c'è un messaggio in nuce: noi con l'operazione degli 80 euro diamo la 14ª agli italiani, gli italiani hanno la 14ª grazie a questa operazione fatta dal governo. Onorevole Stefano Fassina, buongiorno. Renzi ha mantenuto la promessa, gli 80 euro in tasca agli italiani ci sono, si passa dalla sola austerità allo sviluppo? Buongiorno. Buongiorno. No, rimane purtroppo la linea dell'austerità, della svalutazione del lavoro che abbiamo conosciuto in questi anni, con i risultati che saranno gli stessi conosciuti in questi anni. Quindi lei non dà nessun valore a questi 80, la 14, non sono la 14ª? No, sono la 14ª e è positivo per coloro che la riceveranno, non c'è dubbio. Il problema è che questo tassello si inserisce in un quadro che non va. La politica economica continua la rotta dell'austerità, della svalutazione del lavoro che abbiamo conosciuto in questi anni. L'effetto degli 80 euro, in quanto coperti da corrispondente taglio di spesa, sarà un effetto negativo. Quindi lei non dice non incrementerà lo sviluppo, però quella di... Ma non è che lo dico io, guardi. No, ma il Fondo Monetario Internazionale, perché in questo paese sembra che sostenere tesi e valutazioni che sono ormai in senso comune sia un'operazione eretica o di boicottaggio del manovratore. Quindi lei dice che quella di Renzi non è una scelta verso un principio crescente di equità e di sviluppo, no? Ma certamente migliora l'equità, perché se ridurre gli stipendi dei manager e dare più soldi in busta paga a chi guadagna meno di 1.500 euro è certamente una scelta di equità. E passare dal 20 al 26 per cento di tassazione nelle rendite finanziarie è un altro elemento di equità o no? È certamente un altro elemento. Una piccola patrimoniale, insomma, come chiedeva sempre. È certamente un elemento di equità, anche se bisogna sempre ricordare che poi quel 26% si applicherà anche agli interessi dei conti correnti bancari e postali, che non sono necessariamente di ricchi. Certo, naturalmente. Ma il punto non è la singola misura, ci sono alcune misure specifiche certamente positive. Dopodiché, quali sono quelle positive? Quindi gli 80 euro, l'abbiamo detto. Gli 80 euro in busta paga. 20-26% di tassazione. L'intervento sui redditi da capitale e la riduzione. I manager? Gli stipendi dei manager? I manager. Dopodiché è la rotta di politica economica che continua all'insegna di quello che è stato in questi anni nell'economia, con i risultati che sono di tutti. Meno PIL, meno occupati e più debito pubblico. Insisto su questo punto, la critica e la proposta alternativa che facciamo va all'obiettivo di ridurre il debito pubblico, mentre la politica che stiamo seguendo in questi anni in Italia e nell'Eurozona ha portato in Italia un aumento del debito pubblico di 15 punti percentuali al netto dei contributi che abbiamo dato ai fondi salvastati, in un aumento di 30 punti percentuali. Noi avremmo dovuto per... Lei cosa suggerisce quindi? Avremmo dovuto utilizzare tutto lo spazio che abbiamo sotto il 3%, quindi nessun atto rivoluzionario, sì, ma lo spazio che abbiamo sotto il 3% del rapporto tra deficit e PIL per finanziare investimenti produttivi, sostenere la domanda, perché oggi le nostre imprese non assumono perché non fanno investimenti. Non e fanno quindi investimenti. La riforma del lavoro, secondo lei, non va nella direzione di rendere il mercato del lavoro sì più flessibile, ma anche più stimolato verso lo sviluppo? Ma guardi, siamo ancora in modo assolutamente subalterno dentro il paradigma liberista, per cui più precarietà del lavoro vuol dire più occupazione. Non funziona così. Le imprese non assumono perché non hanno. Ma perché non vendono? Perché non vendono. Continuare certo. A precarizzare il lavoro vorrà dire ridurre ulteriormente i redditi dei lavoratori. Vabbè, però gli 80 euro servono per innescare un pochino il processo, perché la critica va bene, ma poi bisogna fare delle cose. Sì, ho capito, ma se gli 80 euro vengono finanziati con tagli di spesa, i soldi della spesa non rimangono in un cassetto in qualche ministero. La spesa sono redditi di persone, sono redditi di imprese, quindi vi saranno alcuni milioni di italiani che avranno una busta paga più pesante, altri milioni di italiani che avranno redditi minori. Il risultato di questo più e questo meno avrà un effetto complessivamente negativo sull'economia. E quindi lei non dice... è che si può guardare solo... No. L'economia è complessiva, è certamente complessiva. Ma quindi lei dice la direzione di Renzi è una direzione sbagliata, per capirci bene. Ci sono alcune cose buone, ma nell'insieme, nel complesso, bisogna andare da un'altra parte. È la direzione in continuità con le manovre di Berlusconi dell'estate del 2011 dopo la lettera della BCE, con le manovre di Monti, in parte con le manovre di Letta, e avrà gli stessi risultati che abbiamo raggiunto in questi anni, cioè meno PIL, meno occupati, più debito pubblico. Quindi il punto è che straordinaria. Onorevole Fassina, sì. C'è Gianluigi da Milano che dice: potete chiedere a Fassina se non pensa di essere la rappresentazione del vecchio partito trasversale di Spendo Tassopoli? Gianluigi da Milano, può rispondere. Certo, grazie. Lo inviterei a guardare i dati sulla spesa, si accorgerà che la spesa italiana è la più bassa dell'Eurozona, che in questi anni si è ridotta in termini nominali, che le politiche che abbiamo fatto in questi anni la ridurranno ulteriormente, che il nostro dramma, la nostra variabile veramente fuori misura è l'evasione, che se noi continuiamo con questa politica... Va bene, quindi Renzi ha preso una strada sbagliata, ma... Ha continuato più che ha preso. Sì, vabbè, ok, non ha cambiato allora, diciamo. Non ha cambiato verso. Non ha cambiato verso, come ha detto, secondo lei. Ecco, ma qual è oggi? Quindi non c'è differenza fondamentale tra il governo Letta e il governo Renzi? Sulla politica economica no. Non c'è differenza. Fondamentale. Non c'è svolta, secondo lei? Non c'è svolta, nonostante alcune misure specifiche. Sì, sì, questo l'abbiamo detto. La linea purtroppo non è cambiata. Ecco, Mario Secchi, una domanda. Dunque, no. Una considerazione rapida. Secondo me la svolta c'è. Ho dei dubbi sulle coperture, però insomma c'è un cambio di passo. Onorevole Fassina, ma secondo lei è possibile... per Renzi avere un PIL più favorevole nei prossimi 6 mesi, perché molto si gioca su questo, cioè su una ripresina. Certo. Con questo DEF no, perché ripeto, l'intervento sull'IRPEF, in quanto interamente coperto, non produrrà effetti positivi a livello macroeconomico, e non è una mia opinione, guardate, ripeto, ci sono documentatissimi studi del Fondo Monetario Internazionale. Sì, l'ha detto, questo l'ha detto. È l'eurozona che è rimasta bloccata. Però Fassina, lei sa bene che il Fondo Monetario Internazionale spesso non ne azzecca una, eh? Cioè, dal pre-crisi in poi, se facciamo una revisione delle loro previsioni... Almeno il Fondo Monetario Internazionale ha fatto autocritica, cosa che la Commissione Europea ostinatamente si rifiuta. E forse ci arriverà anche la Commissione Europea, ci arriveranno anche loro. Penso proprio di sì. Pietrangelo, ancora una domanda, grazie. Buongiorno, è più che una domanda, un aiuto nella semplificazione. Allora, il DEF... Da quel che si capisce, scende il PIL, sale la pressione fiscale, la disoccupazione e la sostanza è questa, no? Nello scenario tendenziale, cioè quello senza interventi, senza misure correttive, lo scenario che lei ha indicato è quello. E quindi o si vince in Europa e si ricombatte la battaglia... come dire, con argomenti nuovi, oppure l'avvenire è la deflazione? Ma non è l'avvenire, è il presente. Vabbè, non è presentino. Non a caso, è fosco, Fassina. No, terribile. La Banca Centrale Europea in modo assolutamente eterodosso rispetto a quello che ha fatto in questi anni ha annunciato settimana scorsa un intervento, tecnicamente si chiama di quantitative easing, sì, cioè di stampare moneta, sì, per sì, comprare, certo, sì, titoli, sì, per mille miliardi esatto, di euro, sì, perché siamo in una situazione di deflazione, un punto in meno di inflazione o un'inflazione allo 0,5 rende drammaticamente, ma è quello che si appresta a fare Draghi, no? Ma non siamo arrivati qua per caso, per il destino cinico e baro, perché nell'Eurozona si seguono politiche sbagliate che poi porteranno ancora di più a crescere quell'area di euro scettici, di anti-euro, di populisti. Ma ho l'impressione che Renzi però abbia intenzione di combattere in Europa una battaglia diversa, per un'Europa diversa, mi sembra, insomma, rivedere. Contributo va in quella direzione. Va bene, ci risentiremo presto, grazie onorevole Fassina. 800 24 00 24, il numero verde, SMS 349 238 6666. Buongiorno. Ha prenotato? Ma io veramente... Avanti, si metta lì. Qui? Sì, lì. Lì. Appena entrato ho capito che lei è un cretino. Perché sono un cretino, scusi? Lo so io il perché. Anch'io lo so perché. Che cosa c'è di buono? Il minestrone, perché? Non ci va? C'è qualcosa che non va? No, va bene il minestrone. E da bere? Solo acqua per lei. Corrente o alla spina? Ecco, allora acqua. Acqua alla spina. Questo è un locale elegante. Peccato che una clientela cretina lo sta rovinando. Ma lei è proprio un cretino. Per non rischiare, come è capitato a Pozzetto in questo brano del film, di finire nel posto sbagliato e magari rovinarsi le vacanze, oggi molti si rivolgono a TripAdvisor, che è una piattaforma che raccoglie le recensioni generate dagli utenti sulla base delle loro esperienze, le esperienze vissute, per esempio in un ristorante, in un albergo. TripAdvisor è anche una grande opportunità gratuita di visibilità per gli esercenti. Recentemente però molti di loro, degli esercenti, chiedono più regole e soprattutto la garanzia dell'attendibilità delle recensioni postate dai viaggiatori, visto proprio il grande sviluppo della piattaforma. Alessandra Maroni è la proprietaria di un bed and breakfast nel centro di Roma che utilizza TripAdvisor. Lei usa TripAdvisor? Sì, uso TripAdvisor. A noi risulta abbastanza utile. Da quando lo usa? Diciamo da quando abbiamo aperto, quindi ormai da 3 anni più o meno. Quindi da subito? Sì, da subito. E ha incrementato il suo fatturato, secondo lei? Direi in parte sì. TripAdvisor è utilizzato soprattutto dai paesi anglosassoni. Per esempio, i francesi non conoscono quasi TripAdvisor. Quindi diciamo gli americani o gli inglesi, anche gli australiani. Sono loro il mercato di riferimento di TripAdvisor, per voi, almeno per voi? Credo in realtà un po' per tutti, perché alcuni paesi non lo utilizzano quasi per niente. E lei come fa a dire che il suo incremento di fatturato è anche riconducibile a TripAdvisor? Perché io so di persone che arrivano da me tramite TripAdvisor, tramite commenti che hanno fatto sulla mia struttura, delle persone che sono venute da me e hanno commentato. Questi commenti sono affidabili? L'unico dubbio vero di TripAdvisor è che in realtà i commenti non sono firmati. Quindi è una struttura, diciamo, che non è più solo in mano completamente agli utenti come era all'inizio, nasce come struttura completamente in mano agli utenti. Adesso diciamo che è una via di mezzo, che non è più solo in mano agli utenti e non è neanche una struttura completamente organizzata. E quindi ci sono dei problemi, signora Maroni? Personalmente personalmente non ho mai avuto dei problemi reali con cioè loro. Non ha mai avuto incidenti, insomma, che no, fossero riferibili avuto... a TripAdvisor. No, mai. Però ho sempre il dubbio, effettivamente, che mi sembra strano che qualcuno non si firmi. Nel senso, un commento su di me, perché la persona che lo fa può non firmarsi? Ma soprattutto perché chi gestisce la piattaforma accetta che non siano firmati i commenti? Esatto, e questo è l'unico dubbio. Quindi io non capisco per quale motivo, quale sia la motivazione di fondo. Noi poi siamo collegati con TripAdvisor anche con un'altra modalità. Loro ti richiedono una partecipazione monetaria, nel senso ti chiedono, diciamo, una cifra fra i 400 e i 500 euro l'anno per fare in modo che se qualcuno chiede qualche cosa su di te, loro gli danno i tuoi riferimenti. Mentre con Booking, per esempio, questo non accade. Cioè, vi fanno un po' da intermediari, da agenzia. Esatto, ci fanno un po' una specie di diritto di agenzia nell'anonimato. Esatto. Ma TripAdvisor non nasceva così. Questa è, secondo me, il vero problema di TripAdvisor adesso. Ma TripAdvisor per lei è un nome o una persona? Ha mai visto in faccia qualcuno di TripAdvisor? No, nessuno, mai visto nessuno. Potrebbe non esistere. Probabilmente esiste. Probabilmente. So che nasce da due signori che hanno cominciato a mettere in rete i loro commenti sui loro viaggi. Insomma, quindi prima era la rete per la rete e poi è diventata una cosa diversa perché ha avuto successo. Però diciamo ha avuto successo, ma manca questo double check, diciamo, questo fatto di sapere, di controllo su chi dice cosa. Se in più voi pagate per avere una funzione di agenzia, è tutto bello, ma un po' strano. Io credo che il vero problema di TripAdvisor adesso è che loro non sono più, non saprei come dire, non sono più né carne né pesce, non sono più una cosa che viene direttamente solo dalla rete con dei commenti solo delle persone. Certo. Loro c'è una parte di struttura organizzativa, ma non così solida, non sono più né in un modo né in un altro. Ecco, 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Uno dei problemi della rete è attribuire delle responsabilità a chi scrive e la utilizza. Ed è esattamente questo uno dei motivi di scontro anche tra alcuni esercenti e TripAdvisor, come ci racconta Giuliano Pacini. Giuliano Pacini, lei è un cuoco e proprietario della Buca di Sant'Antonio a Lucca. Da quanti anni? Diciamo da sempre, ho cominciato da ragazzo, studiavo e cominciai subito poi dopo a lavorare nel ristorante. E quindi si parla di 55-60 anni. Accidenti. Il locale è molto più vecchio, esisteva nel 1700. E le vostre specialità quali sono? Tipiche della regione, Toscana, ovviamente. Mi dica qualcosa di speciale. Gli dico la zuppa di farro, la garmugia, perché la Toscana, sai, terra di zuppe, ogni stagione c'ha la sua. In primavera c'è la garmugia, in estate la cipollata caterina e poi a turno inverno la ribollita o zuppa alla frantoiana. Ecco, ma lei ha contestato delle incongruenze nei commenti pubblicati su TripAdvisor che riguardano il suo ristorante, ma incongruenze di che genere? Incongruenze di che genere? Che si pensa che siano delle recensioni fasulle, perché segnalavano cose che non esistevano, tipo? Compresi. Qualcuno che aveva mangiato in un giorno che il ristorante era chiuso, quell'altro alcuni piatti che quello non lo fa. Poi le richieste che ci sono capitate un po' a tutti a casa da delle agenzie che ti assicurano, ti chiedono, ti offrono un certo numero di recensioni, dice: vuoi aumentare il tuo punteggio su TripAdvisor? Allora aderisci a questa nostra offerta, pagando una cifra ovviamente, e quella cosa che ci fa più incavolare noi, me in particolarmente, è quello, perché sarebbe una cosa che, se fatta levando di mezzo tutte queste recensioni che potrebbero essere non attendibili, chiamiamole così. Ma perché non attendibili? Non attendibili, perché è chiaro che sono tutte non attendibili. Ma è vero che a lei hanno dato del razzista anche nei commenti? Questo è attendibile, credo che sia vero. hanno scritto anche alcuni che noi che i bambini non sono desiderati da noi. Noi abbiamo, quando arrivano i bambini, abbiamo delle matite da dare a loro, dei disegnini, del seggiolone, il fasciatoio, appunto per cambiare i bambini da pannoloni, eccetera. Ma gli avete risposto a TripAdvisor quando vi hanno dato del razzista? Soltanto quando ci hanno dato del razzista. Anche la comunità europea abbiamo risposto. Vabbè, ma poi dovrebbero giudicare, scusi, dovrebbero giudicarsi i cibi, no? Immagino più che altro anche, la qualità delle portate. Ma dare questa arma, che è veramente terribile, in mano a tutti, così uno spirito può adoperarla, a volte fa del male. E quindi ci vorrebbe un certo controllo. Lei l'ha detto, che lei è membro del consiglio direttivo della FIPE, cioè che è la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Ecco, esatto. Pensate di trovare un accordo con loro? Se sì, su che base? Noi abbiamo già cercato di trovare un accordo. Avevamo chiesto se era possibile di togliere l'anonimato, oppure di dare una possibilità fornendo una fotocopia di una ricevuta fiscale, in maniera che uno ci sia la certezza che quello effettivamente nel ristorante c'è stato. Quindi, ma quello che ci fa più incavolare, sì, perché sarebbe uno strumento questo qui, che sarebbe molto utile per la ristorazione. Ma sarebbe molto utile sapere veramente quello che il nostro cliente pensa. Quindi in questo senso TripAdvisor potrebbe essere molto utile, è anche molto utile, perché incrementa i fatturati di molti locali. Ora, sul fatto che può indirizzare una certa clientela, sì, ora il fatto di fatturati, poi insomma non lo so. Mix 24 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Stavamo parlando di TripAdvisor, abbiamo sentito due esperienze diverse. Valentina 4, lei è la responsabile della comunicazione di TripAdvisor. Noi abbiamo sentito commenti di ogni genere, molti positivi e qualcuno negativo al vostro lavoro. Per esempio un cuoco proprietario della Buca di Sant'Antonio di Lucca, che è un membro tra l'altro della FIPE, cioè, ha denunciato un commento che avete fatto indirizzato a lui come se fosse un'accusa di razzismo. Ecco, ma voi fate controlli sui commenti che vengono fatti? Sì, noi abbiamo un sistema di monitoraggio e di filtraggio delle recensioni che ne mappa il come, cosa, dove, quando. Ma è organizzato come? Chi sono questa squadra che controlla? Come funziona? Abbiamo un team di più di 200 specialisti dei contenuti che lavorano 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ma dove? Qui in Italia? No, sono basati in America. Cioè, hanno persone di tutte le nazionalità, però vivono fisicamente in America. Ah, quindi i commenti vengono convogliati in America e lì vengono vagliati? I filtri sono automatici. Poi quando una recensione non passa attraverso il sistema di filtraggio e di monitoraggio... Ma mi fa un esempio di un filtro? Tra le varie cose che possiamo monitorare, che possiamo capire, c'è l'indirizzo IP di chi scrive la recensione, il tipo di browser che utilizza e persino la risoluzione del suo schermo. Il contenuto però come lo filtra? Una stroncatura, per esempio, falsa. E lei come fa a saperlo che è falsa? Allora, noi, siccome siamo comunque un sito generato dagli utenti, chiediamo che siano la nostra community a segnalarci qualunque potenziale contenuto che non è corretto. Quindi sia gli utenti sia i proprietari. Però i vostri contenuti, diciamo, le vostre critiche non sono firmate. C'è l'anonimato come c'è su tutto il web. Le persone poi quando... Però questo è un anonimato... È un anonimato che coinvolge degli operatori, è diverso, no? Riguarda il lavoro di altri. Gli operatori sono degli esercizi pubblici, quindi sono aperti al pubblico. Il cliente che va a mangiare, anche quando va al ristorante, non è che devi per forza dire nome e cognome. E la stessa cosa è per le recensioni. Nel momento in cui una persona posta un commento di un'esperienza fatta, può decidere se apparire col suo nome e cognome oppure no. Noi, per esempio, non diamo valore agli SMS che ci arrivano che non sono firmati. Perché naturalmente il firmare dà un valore diverso alle cose che si fanno. E no? Queste sono scelte, però credo anche che sia giusto poter dare la possibilità di non apparire con nome e cognome sul web. Noi abbiamo anche l'integrazione con il profilo Facebook, per esempio, che a quel punto invece non dà più l'anonimato. Ci sono molti esercenti che hanno avuto un grande incremento del loro lavoro attraverso di voi. Voi addirittura dite il 30% di fatturato di aumento per i locali mediamente, ma chi ve lo dice? Come lo misurate? Beh, abbiamo degli strumenti che misurano, abbiamo anche dei sondaggi perché abbiamo un database enorme. Ma sì, ma per dire, io che ho un ristorante, come faccio a sapere che il mio fatturato si è incrementato del 30% grazie a voi? Perché noi comunque abbiamo una serie di strumenti di marketing e di promozione a cui ogni proprietario che è registrato su TripAdvisor può avere accesso e ne può utilizzare gratuitamente. Io ho letto che voi ricevete più o meno un flusso di 90 recensioni al minuto, non so se è un numero attendibile. Ecco, ma controllare la veridicità di 90 recensioni al minuto, beh, insomma, un bel lavoro, eh. Ci avvaliamo da una parte di filtri automatici perché sarebbe impossibile avere una persona che le legge tutte 90 ogni soprattutto minuto. Se uno li scrive in italiano e quelli stanno in America è più no, difficile. Ma vabbè, sono due discorsi diversi. Allora, sì, come dicevamo, abbiamo comunque un flusso di 90 recensioni al minuto, sì, che vengono in primis filtrate da un sistema automatico. Perché, come dicevo, italiano, francese, giapponese, dovremmo avere 90 persone. No, no, ma infatti è questo che mi interessava capire. Quando poi non passano i filtri, vengono passati a delle persone a seconda della lingua in cui è scritta quella recensione, viene passata a una specialista. Questo sempre in America, sempre in America però. In America sono basati, sì, però okay, hanno di tutte le nazionalità, tutta TripAdvisor, certo, lavora in tutto il mondo. Ma in Italia, per esempio, TripAdvisor quante persone ha che lavorano? Basate in Italia siamo in quattro. In quattro. Però per esempio a Londra, dove c'è l'head office europeo, ci sono tantissimi italiani, sia in tutti i team, nel, sì, team del supporto clienti, nel team delle partnership. E in Italia, per esempio, che fatturato avete? Si può sapere? Più o meno? No, non è un dato che ho neanche io. Non ce l'ha. Ma che strumenti avete messo in campo per bloccare chi utilizza illecitamente la vostra piattaforma? Noi abbiamo da sempre questi sistemi, quando poi il team dei contenuti di investigazione identifica un proprietario che ha fatto un uso scorretto di TripAdvisor e che quindi ha postato recensioni false, e attenzione, comunque facciamo dei controlli molto attenti perché poi penalizzarlo significa rovinare la sua reputazione online, che è molto importante. Certo, agiamo quando, certo, siamo certi al 100% che il proprietario ha fatto un uso scorretto di TripAdvisor. In quel caso, prima di tutto, scende dalla classifica della pagina della città in cui opera. Quindi se è ai primi posti, immediatamente viene messo agli ultimi. Ecco, ma... E in più viene messo un bollino rosso sulla sua pagina, che proprio identifica il fatto che i suoi contenuti non sono corretti. Ecco, ma la privacy... E così si rovina completamente la sua reputazione online. Ma la privacy... È drammatico, però, se ha fatto un uso scorretto, se ha usato una cosa che è proprio illegale, cioè è un reato in, certo, molti paesi, secondo la direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali, è illegale postare recensioni false. Quello lo credo, ma se non si firmano possono postarle false, che intanto nessuno sa chi sono, perché... Ma attenzione, non è tanto il recensore, che il recensore è il mezzo, ma chi fa sì che queste recensioni vengano postate la maggior parte delle volte sono i proprietari. Capisco che diversi, è complicato controllare. Noi diamo voce a tutti i viaggiatori, a tutti gli utenti, e quindi non è che possiamo soltanto postare complimenti. No, no, io sto dicendo un'altra cosa. La differenza è fra chi si firma e chi non si firma. Perché chi si firma può dire quello che vuole, perché se ha mangiato male dici io, Giovanni Minoli, ho mangiato male in quel posto, oppure ho dormito male in quell'albergo. Questo è un discorso che è giusto e chiarissimo. Se non mi firmo, beh, è un po' diverso se voi lo postate. Secondo me non è così diverso, è sempre un parere, voglio dire. Ok, un parere su di me che si sa chi sono. È un parere su di me che si sa chi sono, fatto da uno che non dice chi è. Vabbè, però magari è comunque, può essere una critica costruttiva. No, ma io prescindo da se fa critiche o se fa complimenti. Esatto. Appunto, un'ultima domanda. Con le associazioni degli esercenti, voi avete un tipo di rapporto? State costruendo qualcosa oppure siete noi due binari diversi? No, no, cioè per quello che riguarda noi abbiamo sempre, diciamo, le porte aperte nella collaborazione. No, ma l'avete in concreto la collaborazione? Sì, con Confindustria Alberghi siamo partner da 2 anni e lavoriamo insieme a loro per soprattutto fare formazione ai proprietari. Con buoni risultati? Sì, molto bene. Buoni anche da parte loro. Con la FIPE, che invece è l'Associazione dei Ristoratori, abbiamo avviato una collaborazione a livello regionale toscano per adesso, dove appunto si agisce su 2 binari. Da una parte loro che sono radicati sul territorio possono aiutarci a capire quali sono le realtà che fanno un uso scorretto del web, e dall'altro insieme agiamo per formare i proprietari in modo che capiscano come utilizzare TripAdvisor, che è un mezzo di promozione gratuito incredibile che dà tantissimi strumenti di analisi di marketing, che invece è giusto che conoscano e che imparino ad utilizzare al meglio. Ma tu in riva al mare che fai? Non vuoi parlare? Pietrangelo, oggi qui? Oggi il modo migliore per viaggiare è restare e avere il mare. Niente TripAdvisor. No, per carità. Ma l'immenso mare, e sento l'anima vibrare nell'onda d'amore. Proviamo a sentire la quota rosa se viaggia. Io viaggio. Comunque, volevo parlare di un'altra cosa, cioè del manifesto di Giorgia Meloni, non so se l'avete visto. Bellissima. Ma com'è quanto è fotogenica la Meloni? Cioè, tanto. Finalmente truccata, conciata. Voglio dire che subito, come al solito, gli invidiosi, gli antipatici dicono che è stata ritoccata la foto con Photoshop. Mm. Ma ci sono anche quotidiani illustri che si sono affannati a parlare di questo spinoso tema di Photoshop e della faccia della Meloni, che in un tweet dice: è ufficiale, il mondo mi considera una cozza. Giorgia, io no, non ti considero una cozza. In più dico anche che le cozze sono buone da morire. E dedico all'onorevole questa canzone di Gaber. La donna felice di essere serpente. Carina. La donna infelice di essere questo e quello. Una donna che ha dispetto degli uomini. Siamo passati dal miele mattutino ai mitili. Molto bene. Registro la faccenda. È una bella bolla prima di andare in pubblicità. Mario, cosa bolle oggi in pentola? Allora, facciamo un punto sul DEF? Facciamolo. Allora, dai. Finanzia gli 80 euro in busta paga, va bene, c'è una stangatina sulle banche. E l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, un taglio agli stipendi dei manager di Stato. Quello non è chiaro come, perché ci sono delle voci diverse. Ci sono delle diverse interpretazioni. Ne parleremo un giorno con dettaglio. Le coperture per un terzo sono una tantum, quindi poi bisognerà trovarle definitive, se naturalmente i tagli e gli sgravi restano definitivi. E la vera notizia però, attenzione, alla fine è che il ministro Padoan, molto serio e realista, devo dire, ha ammesso che il debito crescerà, e crescerà soprattutto appunto il rapporto tra il debito e il PIL, che va verso il 135%. È una cosa che bisogna tenere molto, molto, molto, molto in considerazione. Dopo aver sentito la viabilità. Mix 24. Siamo in Grecia? E andiamo in Grecia. Andiamo sì, in Grecia. Perché avendo messo in evidenza che noi andiamo a un rapporto tra debito e PIL del 135%, mi è venuto in mente la Grecia che torna sul mercato dei titoli di Stato. Questa è una cosa interessante. Accidenti. Fa un'emissione da 2 miliardi, butta a fuoco, non guardarmi così. E in due anni, diciamo, mi chiedevo, la Grecia ci ha superato. Sì, sì, sì, nel senso che noi siamo peggio. Non esageriamo, noi siamo sempre peggio. Terza economia d'Europa. Seconda, sì, per manifattura, però non, ce non esageriamo. Nessuno se ne accorge. No, solo io vorrei segnalare che se noi andiamo verso il 135, la Grecia, quando sprofondò nel baratro della speculazione, 148. Manca siamo poco. Un pelo. Sì. Siamo un pelo. E questo però evidenzia cosa? Che in tempi di calma, diciamo, dei mercati su quel fronte, ok, si può anche salire, ma se torna la tempesta cosa facciamo? Questo è urgente, è una cosa che Renzi deve trovare una sistemazione al debito. Sento odor di salamino. Oggi cambio musica, perché oggi 10 anni fa veniva assassinato Fabrizio Quattrocchi. E oggi su Repubblica una bellissima, intensa intervista a Graziella Quattrocchi, che rivela un fatto vero, che è un vizio tutto italiano, e cioè chi dopo una tragedia si mette in mostra, ne fa un marchio, ne fa un affare, ne fa una carriera. E invece l'esempio di Fabrizio Quattrocchi, a cui dedico adesso un pezzo di una canzone particolare, una canzone che fu scritta da Ninni Pingitore, portata al successo da Pino Caruso, oggi nella versione di Sottofaccia Semplice, racconta il destino di chi si sacrifica e poi si veste nell'oblio. Di me la gente dice che ero coi mercenari. Oggi siamo in ritorno. Soltanto per bottino, soltanto per danari. Ma adesso che sono morto, guardate nel mio sacco. Mario. Io cosa vuoi che ti dica? Io vado a qualcosa di incantevole. Fuori è un giorno fragile, ma tutto qui cade incantevole, è come quando resti. È un fantastico pezzo dei Subsonica, molto bello, invito tutti sempre ad ascoltarlo, rende la giornata migliore. E per ricordare chi? Come chi? Lei, incantevole, Maria Elena Boschi, ministro delle riforme, che oggi, forse è una cosa da seguire secondo me, in diretta web sul sito della Camera, va in commissione affari istituzionali e parla delle riforme. Ovviamente della riforma del Senato, c'è la legge elettorale in ballo, tu sai che questa roba è un po' impaludata, è un po' impaludata. Si confronta con la commissione. Esatto, quindi secondo me è da seguire. E vabbè, intanto andiamo con un altro salamino. Arriva domani, arriva giorno 10 e pare che per Silvio Berlusconi si prospetti di andare a fare il proprio obbligo ai servizi sociali tra anziani disabili. E io mi chiedo e vi chiedo, finirà così come col professor Sassaroli nell'atto terzo di Amici miei quando arriva all'ospizio? Ho acquistato questa ignobile baracca di cui sono quindi il nuovo proprietario nonché direttore. Molte cose devono cambiare qui dentro e sarò inflessibile. Ivan il Matto. Intanto la chiave del portone. Qui sono Ivan il Matto. Spegnere motori. Silenzio assoluto. Motori spenti. Che succede, Jones? Allora, Ucraina, Ivan il Matto, questo è il comandante Ramius, caccia Ottobre Rosso, perché? Perché la Francia vende i suoi elicotteri Mistral alla Russia, Eni e altra mezza dozzina di compagnie petrolifere continuano a costruire South Stream, il gigante tedesco Siemens entra ed esce dal Cremlino, le sanzioni europee. Allora cosa significa? Che tutti stanno a fare affari con Putin, il quale nel frattempo vede qual è il grande vincitore disgregarsi. Perché la parte est pro-Russia, è incredibile, ma è così, è in agitazione. Ieri notte ci sono state delle trattative che sono fallite tra fedeli al governo di Kiev e gente che vuole la secessione in stile Crimea. E prepariamoci. Quindi i russi arriveranno a Kiev, che dici Pietrangelo? Sì. Ma sai, la salvezza viene sempre da Oriente, a maggior ragione quando, ricordi l'intervista che hai fatto alla Jursenar, certo. L'Europa è soltanto un promontorio dell'Asia. Vuoi sentire della musica? Dai. Senti, dai. L'inno, senti. Navighiamo verso la storia. Ah, siamo a casa. Sì. Sì. E niente, questo era il sommergibile, Ottobre Rosso, e il comandante Ramius che a un certo punto dirà: lasciateli cantare, chi se ne frega degli americani. Oggi naturalmente noi racconteremo una puntata